8. Ascolta e controlla. 1. Vorrei un paio di guanti. Vorrei due paia di guanti. 2. Questa sciarpa costerà un centinaio di euro. Questa sciarpa costerà 2 centinaia di euro. 3. Il tempio è greco. I templi sono greci. 4. Quell'uomo è colto. Quegli uomini sono colti. 5. Mi presti 1000 euro? Mi presti 2000 euro? 6. La vitamina C è un'arma per difendersi dalle malattie. La vitamina C e gli omega 3 sono delle armi per difendersi dalle malattie. 7. Ci vogliono 4 uova per preparare il dolce. Ci vuole un uovo per preparare il dolce. 8. Stanno verniciando le ali dell'aereo. Stanno verniciando l'ala destra dell'aereo. 9. Un miglio terrestre corrisponde a circa 1600 metri. 2 miglia terrestri corrispondono a circa 3200 metri. 10. Sono uomini sportivi. È un uomo sportivo.